Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Così ha deciso Trump. Alla fine l'atteso e assai temuto dalla comunità internazionale annuncio di Trump è arrivato, il presidente americano, e ora avete sentito, di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Questo nonostante i moltissimi moniti arrivati da tutto il mondo, da moltissimi capi di Stato, dall'ONU, dall'Unione Europea, anche dal Papa, sul rischio con questa decisione di far ripiombare il Medio Oriente in un conflitto senza fine. Ne parleremo con due ospiti, e questo è un argomento estremamente delicato. Poi ci occuperemo anche della scelta di Time, della prestigiosa rivista americana Time, che sapete che a fine anno dedica sempre la copertina alla persona dell'anno, in questo caso l'ha dedicata alle donne che hanno rotto il silenzio sulle molestie sessuali. Poi parleremo di calcio, c'è la partita di Champions del Napoli e non possiamo dimenticare anche il meteo, per capire se effettivamente ci siano forse delle brutte notizie su questo ponte per chi lo farà e anche per chi non lo farà. Insomma, comunque dovrebbe arrivare purtroppo il brutto tempo. Ma intanto, prima di approfondire i vari argomenti, vi ricordo pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, i vostri dubbi, le vostre riflessioni, oppure c'è il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Prima di tutto, allora, dicevo, riassunto della giornata. La svolta storica, il presidente americano Trump conferma la sua decisione, Gerusalemme è la capitale di Israele, il primo ministro israeliano esulta, ira dell'ONU che dice no a decisioni unilaterali e Abu Mazen, leader palestinese, commenta: Trump ci porta in guerre senza fine. Politica italiana, Pisapia si arrende sulle alleanze, dice col PD è finita e anche Alfano annuncia non mi candido. Blitz dei neofascisti contro Repubblica, fumogeni e slogan e guerra al PD, dice il leader di Forza Nuova, solidarietà al giornale. I dati Istat aumentano le disuguaglianze in Italia, 1 su 3 a rischio povertà. Agicom diffida Amazon, svolge un vero e proprio servizio postale senza titolo. La scelta di Time per la prestigiosa rivista americana, il movimento Me Too è la persona dell'anno, un omaggio alle donne che hanno denunciato le molestie. Musica, addio a Johnny Hallyday, la star del rock francese, idolo dei giovani, è morto a 74 anni. Calcio in Champions stasera, tocca al Napoli contro il Feyenoord. Partiamo quindi da questa svolta storica di Trump che ha, avete sentito all'inizio, questa svolta ha allertato il mondo intero per le possibili conseguenze della sua decisione, ovvero appunto quella di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele e di trasferire quindi lì l'ambasciata americana da Tel Aviv. Ha detto questa su Gerusalemme, ha detto Trump, è una scelta di pace, però subito rabbia e condanna da parte del mondo arabo, indignazione anche dall'ONU che parla di inaccettabile decisione unilaterale dell'Unione Europea, con fra gli altri il presidente francese Macron che parla di decisione deplorevole. E questa mattina c'era stato anche l'appello inascoltato del Papa. È un accorato appello affinché sia impegno di tutti a rispettare lo status quo della città in conformità con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. Gerusalemme è una città unica, sacra per gli ebrei, i cristiani e i musulmani, e ha una vocazione speciale alla pace. Prego il Signore che tale identità sia preservata e rafforzata a beneficio della Terra Santa, del Medio Oriente e del mondo intero. E poi, come dicevo, ci torniamo con due ospiti per capire quali potrebbero essere le conseguenze e se effettivamente c'era bisogno di questo strappo. Ma passiamo alla politica italiana con un ulteriore strappo nel centrosinistra. Invece da tempo si aspettava, nella ricerca delle alleanze in vista delle politiche, che l'ex sindaco di Milano, nonché leader di Campo Progressista, facesse la sua scelta nell'avvicinamento verso il PD, ma oggi è arrivata la dichiarazione di resa di Pisapia. Quindi, cara Elisabetta Fiorito in diretta da Roma, ciao Betta. Ciao, quindi da Gerusalemme passiamo a Roma, anzi a Milano. Pisapia ha detto impossibile il confronto col PD. Impossibile il confronto con il PD, perché? Perché l'ex sindaco di Milano si è arrabbiato e lo Ius Soli è stato messo all'ultimo punto del calendario di Palazzo Madama perché non ci sono i numeri. Questa è la realtà e quindi difficilmente verrà approvato, anche se Zanda dice no, ma noi ci proveremo. prima ci sarà il biotestamento e poi il 19 e il 20 la riforma del regolamento del Senato e poi lo Ius Soli. Questo è il problema. Comunque quello che si è visto è che questa alleanza, questa coalizione che Renzi voleva fare di centrosinistra è praticamente sfumata, ci sta qualche ex cell, c'è poi Emma Bonino con qualche radicale, ma questo è quanto, il resto è il PD che correrà da solo, questa è la sostanza. E correrà da solo anche perché Angelino Alfano di AP ha già detto che non si ripeterà. Sentiamolo Betta, sentiamo proprio Alfano, la sua viva voce. Ho scelto di non ricandidarmi alle prossime elezioni per dimostrare che tutto quello che io ho fatto e abbiamo fatto è stato solo dettato da una sincera e fortissima convinzione a favore dell'Italia. Colpo di scena quindi Betta? Colpo di scena, tutti escono di scena perché poi Pisapia ha detto che non si ricandida, quindi non si ricandida Pisapia, non si ricandida Alfano. E la disaffezione verso la politica anche dai politici stessi, che succede? Guarda, noi abbiamo fatto una battuta perché oggi stavamo tutti quanti cronisti in transatlantico, è uscita questa cosa di Alfano, arriva Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle, noi abbiamo detto Alessandro, guarda che pure Alfano non si candida come te, quindi ci siamo fatti un attimo, no? C'è questa disaffezione evidentemente dalla politica. Però poi ci sta molto populismo in piazza, Roberta, perché comunque desta molta preoccupazione quello che è successo davanti a Repubblica oggi con Forza Nuova. Già, un blitz contro il quotidiano Repubblica, no? Di Forza Nuova. Quindi il fatto che poi ci sia questa disaffezione, il fatto che poi magari non si riescono a fare le coalizioni, Emanuele Fiano del PD spera che Pisapia ci ripensi, mentre Pippo Civati oggi era molto contento del fatto che magari si può fare una cosa rossa un po' più grande, no? Però il problema è che attenzione che tutte queste piccole decisioni non vengono viste così come le possiamo vedere noi, no? Come un'alleanza non si è fatta eccetera, portano disaffezione e poi portano però che ci sono blitz antidemocratici contro un giornale che ci riporta a tempi oscuri. Questo è molto importante. Infatti a questo proposito sentiamo che cosa ha detto Mario Calabresi, direttore di Repubblica, perché tra l'altro Fiore, leader di Forza Nuova, ha detto è un attacco alla Repubblica, all'Espresso ma anche al PD. Sentiamo Calabresi. Da questo momento è incominciata una guerra, un boicottaggio contro Repubblica che è colpevole di genocidio verso il popolo italiano, questo perché appunto è favorevole alla legge sullo Ius Soli. E sappiamo di avergli dato fastidio, sappiamo che le inchieste soprattutto sui finanziamenti, sugli affari, su come sia Forza Nuova che Casa Pound sono cresciute in questi anni hanno dato fastidio, ma non siamo tanto preoccupati per Repubblica, quanto siamo preoccupati per un clima che c'è nel paese. Come dicevi tu Betta, sentiamo allora Morani del PD che chiede a Minniti di sciogliere Forza Nuova. Il PD non si fa intimidire, oggi è stato oltrepassato ogni limite, per questo abbiamo chiesto al ministro Minniti di sciogliere Forza Nuova. Poi la questura, Betta, ha vietato la manifestazione degli skinheads sabato a Como, no? Quella di Forza Nuova contro l'altra manifestazione del PD alle 11 di mattina per l'irruzione dei giorni scorsi a Como dei nazi skin in un'associazione per migranti, però Forza Nuova ha fatto sapere che ci sarà lo stesso. Insomma, segnali, come dicevi tu, preoccupanti. Inquietanti, segnali che ci riportano a un passo che purtroppo Roma è molto vicino, e poi bisogna smettere di sdoganare questi leader che vengono invitati in trasmissioni, in televisione, eccetera. Queste sono forze antidemocratiche. Quando si capirà, poi non si inviteranno più in un tavolo, anche in un salotto televisivo, no? Per farci dire cosa pensano, eccetera. Perché in realtà il blitz di oggi ha dimostrato che sono forze antidemocratiche. Grazie Elisabetta Fiorito da Roma. Grazie a te Roberta. Ciao Betta. Adesso i dati Istat sulla povertà. Sale il reddito, ma crescono nel nostro paese le disuguaglianze. Nel 2016 quasi un italiano su tre è a rischio povertà ed esclusione sociale, in tutto 18 milioni di persone, pari al 30% della popolazione. Numeri in salita rispetto al 2015 e ancora lontani dagli obiettivi fissati dall'Unione Europea per il 2020, scrive l'Istat. La situazione più critica si conferma al sud, ma il peggioramento maggiore è al nord. Così come a soffrire sono soprattutto le famiglie con 5 o più componenti, ma è per quelle con uno o due che l'indicatore peggiora. Per contro, il reddito reddito netto medio annuo nel 2015 sale ed è pari a circa 2.500 euro al mese, primo incremento in termini reali dal 2009, rivela l'Istituto di Statistica. La crescita però riguarda soprattutto il quinto più ricco della popolazione, ci racconta Federico Polidoro dell'Istat. Questo vuol dire che l'aumento del reddito che è stato registrato nel 2015 in realtà non si è distribuito in maniera omogenea tra i diversi gruppi di famiglie, nel senso che è andato maggiormente nelle tasche dei più abbienti. Per metà delle famiglie, infatti, il reddito netto è inferiore ai 2.000 euro al mese. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso parliamo dell'Agicom, l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, che ha diffidato Amazon perché dice alcune delle attività di Amazon sono assimilabili a quelle postali, pertanto il gigante dell'e-commerce deve mettersi in regola, deve regolarizzare la propria posizione. Le società che svolgono attività postale devono ottemperare a vari obblighi, tra questi l'essere in regola con le disposizioni in materia di condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale. E ora all'estero, in Russia, Vladimir Putin ha ufficializzato la propria candidatura alle presidenziali russe del 2018. Pareva strano, semmai il contrario. E poi la scelta di Time, il movimento Me Too, contro, cioè che significa anch'io, contro le molestie sessuali, è la persona dell'anno di Time 2017. L'annuncio oggi sulla rivista online, su time.com, con la copertina di fine anno. La rivista americana ha reso omaggio alle donne che hanno rotto il silenzio nel mondo dello spettacolo, della politica, dei media e più in generale nel mondo del lavoro sulle molestie sessuali. Di nuovo in Italia, cronaca, sono due gli operai feriti nell'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina alla Waber di Torino, storica azienda che produce elementi per carrozzerie, l'automotive, adesivi e componenti per la nautica e l'aerospaziale. Si tratta di due uomini di 61 e 76 anni, uno dei quali consulente della ditta. Si sarebbero ustionati dopo essere stati investiti da una scarica di vapore ad alta pressione. L'incidente è avvenuto proprio nel giorno del 10° anniversario della strage della Thyssen. Il parà che morì a Pisa nel 99, la morte di un giovane parà in caserma causata da un'aggressione avvenuta in un ambiente dominato dal nonnismo è stata spacciata per suicidio e le vere responsabilità sono state coperte per anni dalla catena di comando della brigata Folgore a Pisa. Questa è la conclusione cui è giunta la commissione parlamentare d'inchiesta su Emanuele Sceri, militare siracusano trovato cadavere il 17 agosto 1999 ai piedi di una scaletta della caserma Gamerra di Pisa, dove avvenivano gravi atti, si legge, graviati di violenza non riconducibili a semplice goliardia. E poi la musica, con la Francia in lacrime per l'addio a Johnny Hallyday. I titoli sui giornali italiani parlano di Johnny Hallyday come dell'Elvis francese, ma lui era molto di più, un simbolo della Francia, tanto che anche le massime cariche istituzionali, oltre al mondo dello spettacolo e a tutti i suoi fan, gli stanno rendendo omaggio. La notizia della morte di Hallyday non è purtroppo giunta inaspettata. Era malato da tempo, ma soprattutto da qualche settimana le sue condizioni si erano aggravate, tanto che una falsa notizia della scomparsa era circolata la scorsa settimana sui social network. A dare l'annuncio ufficiale è stata la moglie Letizia con un comunicato poco dopo le 3 del mattino. «Scrivo queste parole senza crederci, eppure è così, il mio uomo non c'è più». L'intero paese si è così svegliato piangendo il mito che pensava immortale, l'uomo che ha venduto 110 milioni di dischi dal 1960 a oggi, ha interpretato film importanti, ha vissuto una vita di eccessi, sempre in prima pagina. Ora l'Eliseo pensa a un omaggio nazionale. Abbiamo tutti in noi qualcosa di Johnny, ha scritto Emmanuel Macron con un comunicato diffuso in piena notte. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo arrivati allo sport, al calcio, in Champions. Questa sera c'è il Napoli, vero Giovanni Capuano, già in vantaggio? Sì, già in vantaggio, ma non ci sono belle notizie per i tifosi del Napoli. Allora, andiamo con ordine. 31esimo minuto, il Napoli avanti 1-0 in casa del Feyenoord e ha messo in discesa quasi subito la partita dopo due minuti con la rete segnata da Zielinski, con un destro preciso sotto misura, sotto la traversa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Napoli che sta letteralmente dominando la sua partita, pur avendo una formazione con qualche cambio rispetto a quella dei titolarissimi, ha avuto altre occasioni, soprattutto con Mertes, è andata più volte vicinissima al raddoppio, lui è andato vicinissimo anche Amsic, non lo ha trovato, ma è un Napoli che sta conducendo con grande sicurezza questa partita. La cattiva notizia viene però da Kharkiv in Ucraina, perché lo Shakhtar Donetsk in questo momento sta conducendo 1-0 sul Manchester City. Il gol lo ha segnato Bernard al 26esimo del primo tempo ed è una brutta notizia, perché per qualificarsi agli ottavi di finale il Napoli deve vincere obbligatoriamente, ma deve anche sperare che il Manchester City vinca in casa dello Shakhtar, e in questo momento il risultato è 1-0 per lo Shakhtar. Parliamo del Manchester City, in realtà dovremmo parlare in maniera più corretta delle riserve del Manchester City, perché il Manchester è già matematicamente primo nel girone e qualificato, e si è presentato a questa partita fondamentale soprattutto per il Napoli con una formazione imbottita di riserve. Napoli che in questo momento però incassa il pareggio del Feyenoord al 33esimo con un colpo di testa di Jorgensen, dunque Feyenoord 1 Napoli 1. Si fa sempre più difficile la serata del Napoli. Napoli sfortunato, di fatto alla prima occasione il Feyenoord ha segnato. Napoli che nella prima mezz'ora di occasioni dopo il gol di Zielinski ne aveva avute parecchie. A te. Grazie Gianni Capuano, poi ci risentiamo più tardi per sapere se cambia questo risultato. Intanto aggiorniamo chi sta viaggiando, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Prima di lasciarci brevemente ne leggo qualcuno. Fabio dice: Alfano non si ricandida, non ha più un partito, ma poi ce lo ritroviamo sempre al governo, mi spiegate come? No, in realtà ha detto anche che non farà neanche il ministro, quindi... l'ha detto, insomma. Walter dice: dicono che se la capitale diventa Gerusalemme si entra in un conflitto senza fine, finora invece hanno giocato a carte. No, però si stanno facendo da tempo tanti sforzi per trovare proprio dei minimi equilibri, e come immaginate un castello di carte, e basta un soffio per buttarlo giù, e questo è tutt'altro che un soffio, ma ne parleremo tra poco. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie, le principali, che vi ricorderò tra poco perché non avessi acceso puntualmente le 21. Roberta Giordano sempre con voi come tutte le sere dal lunedì al venerdì per riassumervi la giornata all'inizio e poi affrontare alcuni temi in particolare tra i più importanti insieme agli ospiti per capire meglio che cosa c'è dietro, che cosa c'è dentro. A proposito per esempio della notizia principale di oggi, quella della decisione di Trump su Gerusalemme, che sta scatenando, sta gettando un po' nel caos il mondo intero, insomma, per capire che cosa a questo punto potrebbe succedere, visto che è un'area con equilibri, dicevamo prima, delicatissimi. Tra pochissimo ne parlerò con due ospiti. Intanto vi ricordo, per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure gli sms e WhatsApp che potete mandare al 349-238-6666. Rocco scrive: Trump contestato per la decisione di Gerusalemme capitale, scelta radicale che potrebbe cambiare tantissimi equilibri. Va bene, fino a ieri i tentativi di processi di pace, che risultato hanno portato? Siamo sempre punto e a capo. Ero io piccolo e sentivo parlare di tentativi per metter pace nel Medio Oriente, ho 50 anni e sento parlare ancora della stessa cosa. Corsi e ricorsi ad oggi non hanno prodotto risultato. Ben venga la drastica ed epocale svolta, dice Rocco. Beh, vediamo a cosa porta, però non so se sia questa effettivamente la soluzione per pacificare quell'area così infuocata. Ne parleremo tra pochissimo con gli ospiti. Intanto vi dicevo, queste sono le notizie principali. La svolta storica, il presidente americano Trump conferma la sua decisione, Gerusalemme è la capitale di Israele, il primo ministro israeliano esulta, l'ira dell'ONU che dice no a decisioni unilaterali e Abu Mazen, il leader palestinese, che commenta: Trump ci porta in guerre senza fine. Politica italiana, Pisapia si arrende sulle alleanze, col PD dice è finita e anche Alfano annuncia non mi candido. Blitz di neofascisti contro il quotidiano Repubblica, fumogeni e slogan, guerra al PD, dice il leader di Forza Nuova, solidarietà al giornale. I dati Istat aumentano le disuguaglianze in Italia, 1 su 3 a rischio povertà. E poi la Gcom che diffida Amazon dicendo che svolge un vero e proprio servizio postale senza titolo. La scelta di Time per la prestigiosa rivista americana, il movimento Me Too è la persona dell'anno, un omaggio alle donne che hanno denunciato le molestie sessuali. Per la musica, addio a Johnny Hallyday, la star del rock francese, idolo dei giovani, è morto a 74 anni. In campo per la Champions c'è il Napoli che ha pareggiato da poco, in realtà il Feyenoord che ha pareggiato da poco col Napoli, 1-1. I have determined that it is time to to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. L'avete sentito, l'abbiamo sentito anche all'inizio, Trump che oggi ha confermato l'annuncio che già ieri e nelle scorse settimane, soprattutto ieri, insomma, aveva destato molta, molta preoccupazione internazionale, che ha gettato oggi con questa conferma in cui ha detto era tempo che Gerusalemme fosse dichiarata e riconosciuta come capitale di Israele. Questo ha gettato nel caos la comunità internazionale. Quello della scelta di Gerusalemme come capitale, quindi anche di spostare l'ambasciata americana da Tel Aviv a Israele. Una decisione, vi dicevo, che sta preoccupando un po' tutti i capi di Stato del mondo. Per tutti il timore è che questo precario equilibrio che si cerca da anni infiniti in Medio Oriente possa incrinarsi definitivamente, perché si ritiene che non si possa entrare così a gamba tesa su una delle questioni più complicate della geopolitica del mondo, cioè la vicenda, la situazione israelo-palestinese. Abbiamo sottolineato già ieri l'importanza, no, di Gerusalemme per tutte e tre le grandi religioni monoteistiche, quindi quella ebraica, quella cristiana e quella musulmana, il suo potente valore simbolico, perché lì a Gerusalemme ci sono, a Gerusalemme vecchia, ci sono monumenti e siti storici che appartengono, che sono importantissimi per tutte e tre le religioni. Una città che avrebbe tutto il potenziale per essere un luogo di dialogo e invece finita con l'essere una città contesa, assediata, motivo di conflitti, preda di appetiti geopolitici. Insomma, stanno arrivando da ieri soprattutto moniti e appelli da tutto il mondo, ma Trump questa sera, circa ore 19 italiane, ha, come avete sentito, confermato la sua decisione di ritenere Gerusalemme per capitale di Israele. Ha detto: questa scelta è necessaria per la pace, farò di tutto, dice, che quello che è il mio potere, per un accordo di pace israeliano palestinese. Però va detto, allora, Netanyahu, primo ministro israeliano, ha detto che la decisione di Trump è un passo importante verso la pace, perché non ci può essere alcuna pace che non includa Gerusalemme come nostra capitale di Israele. Ha detto però: assicureremo sempre libertà di culto nella nostra città, ebrei, cristiani e musulmani. Tra i moniti e i vari appelli che ci sono stati dai vari leader mondiali, anche quello di Papa Francesco, che avete sentito prima, che ha espresso profonda preoccupazione chiedendo che tutti rispettino lo status quo della città. Il Cremlino, quindi Putin, è preoccupato per il possibile deterioramento della situazione. L'Unione Europea è per continuare un negoziato con una città e due stati. Il presidente turco Erdogan ha convocato un summit dei paesi islamici e nel frattempo cortei di protesta a Gaza, Cisgiordania, slogan contro gli Stati Uniti, bandiere americane bruciate, la Lega Araba che ha detto che si tratta di una provocazione ingiustificata, il leader iraniano Khamenei che ha detto che la Palestina sarà liberata, i vari leader cristiani di Gerusalemme che hanno detto che questo potrà aumentare la violenza, ci saranno danni irreparabili, e poi l'ONU col segretario generale Guterres che ha detto: solo realizzando la visione di due stati che convivono in pace e sicurezza, con Gerusalemme capitale di Israele e della Palestina, tutte le questioni sullo status saranno risolte in via definitiva attraverso negoziati, perché non si può prendere una decisione unilaterale. Saluto Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Ciao Marco. Ciao, buonasera. Allora, i presidenti americani, in realtà anche Bill Clinton e George Bush, si erano impegnati formalmente nella campagna elettorale loro per spostare l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, però una volta diventati presidenti hanno preferito soprassedere per non creare ulteriori tensioni nell'area. Invece Trump ha deciso questo strappo. Sì, e Trump, diciamo così, ha cercato di mettere in contesto il suo strappo proprio ricordando che in realtà viene da lontano, cioè una legge del 95 approvata dal Congresso ad ampia maggioranza, che così prevedeva lo spostamento eventuale dell'ambasciata americana a Gerusalemme, quindi il riconoscimento della capitale di Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele. Trump però non si è soffermato sulla seconda parte, cioè poi, appunto, come ricordavi tu, tutti i presidenti americani hanno usato un poi giudizio politico concreto nel momento di decidere quando e se spostare l'ambasciata, e hanno sempre rinviato proprio per dare spazio e enfasi ai tentativi, seppur mai poi riusciti davvero ai tentativi di arrivare a una soluzione diplomatica, di far avanzare il negoziato di pace. Trump ha invece deciso che a questo punto, e l'ha detto esplicitamente, quello che serviva era uno strappo. Diciamo, lo strappo sta diventando un po' la firma della sua, così, il marchio di fabbrica della sua politica estera. Ne ha già appunto effettuati diversi, anche se un po' meno forse conseguenziali da un punto di vista dell'impatto immediato, sicuramente meno drammatici. Ricordiamo l'uscita unilaterale dall'accordo di Parigi sul clima, ricordiamo gli strappi sul NAFTA, su accordi commerciali, l'uscita recente dall'accordo sui migranti dell'ONU. Quindi diciamo non sorprende questa politica, diciamo, essere fatta di strappi, di sorprese, di shock, che è un po' il modo in cui lui governa. Ha però scelto in questo caso un tema estremamente drammatico e delicato, e la scommessa appare estremamente, estremamente azzardata, come si vede dalle reazioni che ricordavi, praticamente quasi unanimi, diciamo, di critica, condanna, scetticismo, se si fa eccezione di quella chiaramente di Benjamin Netanyahu. A questo proposito, Marco Valsani, saluto Vittorio Emanuele Parsi. Ciao Vittorio Emanuele, che è esperto di geopolitica, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Vittorio Emanuele, c'era bisogno di questa decisione di Trump, di questo strappo? No, questa decisione di Trump ci dimostra che Trump è un bugiardo in malafede, animato da furore ideologico e da furore ideologico nel conservatore, che è quelle quattro cose che imparatisce, che sa di politica internazionale. Credo che ci sia anche una mossa a carattere interno, perché credo che il New York Times lo stia inchiodando contro il muro per il Russiagate, e ho la sensazione che con questa mossa New York Times sarà un pochino meno attento a inchiodarlo contro il muro, perché c'è una parte del New York Times che è molto attenta alla questione di orientali, diciamo in maniera molto pro-israele. Gli effetti per la pace di cui parla li stiamo vedendo già immediatamente, dichiarazioni furibonde da parte di tutti. Credo che anche Trump stia cercando una crisi che gli consenta di persino di poter entrare in una situazione di conflitto, se non di guerra aperta, ma molto meno pericolosa di quella col Nord Corea, perché il Nord Corea ha le armi nucleari, e invece nel Medio Oriente c'è un paese che fa il bello e il cattivo tempo, che è Israele, è un paese, come l'Iran, che potrà non piacere a tutti noi per mille motivi, ma che sicuramente non ha delle armi nucleari. Io credo che Trump sia un pericoloso dilettante. Veramente Wolf, in un articolo recente su Foreign Policy, lo paragonava al Kaiser Guglielmo II, un incompetente dilettante animato da grande furore ideologico. Questo è pericolosissimo per un'area come il Medio Oriente. Vittorio Emanuele, allora intanto ci sono gli ascoltatori che scrivono: Francesco dice Trump ha ragione, perché Gerusalemme è la capitale di Israele, chi la pensa diversamente si rassegni, semmai si devono rispettare i luoghi di culto di altre religioni. Floriano invece dice Trump fa la punta agli spilli, è pericoloso. Ma dimmi una cosa Vittorio Emanuele, ma un capo di Stato, pur diciamo dello Stato più potente del mondo, che potere effettivo ha di decretare che una città di un altro Stato o di altri Stati, diciamo, divisa tra vari stati, è la capitale di uno Stato? Rispetto alla storia nessuno, chiaramente, perché capisci bene che domani potrebbero venire gli Etruschi e rivendicare Velletri come capitale dell'Etruria, voglio dire, cioè, la logica è questa, nel senso che in tutti possono passare, è passato chiunque. Noi rivendicavamo una volta da Re Fiume, gli slavi rivendicavano Trieste. Voglio dire, capisci, quando vai indietro nel tempo trovi sempre qualunque giustificazione per qualunque nefandezza, per carità. Ma non è questo il punto fondamentale. Perché Trump sta giocando una scommessa politica estremamente rischiosa. In parte perché non capisce, secondo me, fino in fondo. Cioè non sa valutare, non che sia stupido, ma commette un errore di valutazione del rischio. E in parte perché è molto cinico. Questa è la cosa che non può essere lasciata passare. E fanno bene le Nazioni Unite a ricordare che i confini dello Stato di Israele sono quelli del 67. Ogni violazione di questo confine, che non sia un cambiamento pattuito con tutti, è una violazione arbitraria, è un atto di violenza. È gravissimo che il leader di una democrazia come gli Stati Uniti perpetri e sostenga un atto di violenza. Questo è il punto. Però dice alla fine è una provocazione se lui non ha il potere di decretare che quale sia la capitale di uno stato o di un altro, no? Però dici non è una provocazione, è un'idiozia pericolosa. Senti, Abu Mazen, il leader palestinese, ha detto Trump con questa decisione ci porta in guerre senza fine. Per chiudere, c'è davvero questo rischio? Certo che c'è, perché i governi possono essere malleabili. I sauditi, come scriveva il Jerusalem Post di 3 giorni fa, alla fine faranno una dichiarazione, romperanno un po' le scatole a chiacchiere, ma il loro problema è l'Iran, per cui per farla fuori l'Iran sono disposti a fare patti con chiunque, anche con il diavolo, ma il problema sono le opinioni pubbliche. Noi continuiamo a sottovalutare, anche nel 2010 lo facemmo con le primavere arabe, noi continuiamo a sottovalutare le opinioni pubbliche arabe, i musulmani, facendo finta che non contino. Se noi continuiamo così, prima o poi l'impatto lo avremo noi. Trump è fortunato perché è messicano, noi abbiamo il Mediterraneo in mezzo. Ogni sciocchezza che fa lui la paghiamo noi, non la paga lui. Chiaro. Grazie Vittorio Emanuele Parsi. Grazie a voi. Ciao Vittorio Emanuele. Dopo diciamo queste riflessioni piuttosto inquietanti, direi di lasciare. Grazie a Marco Valsania. Ciao Marco, scusa. Figurati. Ciao, no, ciao grazie, Marco. Grazie a voi e credo che appunto, come dicevate prima, la questione diciamo rimane aperta, perché comunque questa decisione di Trump apre tutto un nuovo capitolo di incognite anche per la politica americana, certo per il mondo, per l'Europa, per la Palestina, ma anche per la politica americana, perché comunque non è chiaro quale sia la strategia a questo punto di Trump dopo questa dichiarazione, cioè ha gettato questo sasso o questa bomba diciamo sul Medio Oriente, ma a questo punto la sua responsabilità sulle ripercussioni e le conseguenze sarà innegabile e dovrà farli conti. Comunque diceva, per chiudere Marco, Vittorio Emanuele Parsi, che oltre che appunto una decisione pericolosa è una ricerca anche di consenso interno, no? Assolutamente, c'è una dinamica interna, cioè ricordiamo che Trump governa con una minoranza del 35%, 39% di consensi, è il primo presidente americano da generazioni che ha scelto di governare in questo modo, cioè non cercando di allargare il consenso e facendosi presidente di tutti gli americani, ma usando questa minoranza come una clava politica. La conseguenza è però che deve accontentare costantemente questa minoranza politica, che è fatta da ultraconservatori, evangelici e correnti religiose estremiste, che su Israele sono estremamente mobilitate e gli chiedono conto della promessa elettorale di spostare l'ambasciata a Gerusalemme, di riconoscere la capitale, Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele. E a questo punto Trump, cinico e baro, se vogliamo così dire, accetta questo patto faustiano, non credo tanto per ragioni ideologiche, ma proprio per ragioni appunto di calcolo politico. Un calcolo politico che rischia però di tradursi in tragedia internazionale, un calcolo politico interno che rischia di tradursi in tragedia internazionale. C'è anche un calcolo di politica estera, anche qua molto azzardato, però chiaramente Trump conta sul fatto, su un'evoluzione della dinamica regionale che avvicini dietro le quinte gli interessi di paesi influenti quali l'Arabia Saudita, l'Egitto e Israele, in funzione anti-iraniana. Ecco che questo, e conta che questo in realtà attutisca in qualche modo le tensioni interne che genera sul fronte palestinese. Grazie Marco Valsani. Una scommessa azzardata. Già. Grazie a voi. Ciao Marco da New York. Adesso ci fermiamo, stanno arrivando ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Abbiamo appena parlato lungamente con gli ospiti di questa situazione veramente sempre più aggrovigliata e di altissima tensione causata dalla decisione del presidente americano Trump di decretare Gerusalemme capitale di Israele e di spostare la propria ambasciata, quella americana, da Tel Aviv a Gerusalemme. Molti di voi ancora ricordano quello che ho detto anche prima, cioè che anche i presidenti precedenti americani, Clinton, Bush, avevano promesso questo in campagna elettorale, però come dicevamo poi hanno deciso di arrivare a più miti consigli una volta che sono diventati presidenti, proprio per il rischio di infuocare ulteriormente l'area del Medio Oriente e la zona, appunto quei territori. Adesso però cambiamo argomento, tra l'altro a proposito di politica, Alfano avete sentito prima che si ritira e non si candida prossimamente, non sarà ministro e non sarà parlamentare, però dice non mi ritiro dalla politica, e sembra che l'abbia fatta questa scelta un po' anche perché si stringeva il cerchio intorno a lui, molti del suo partito di Alternativa Popolare probabilmente guardano di nuovo a destra, al centrodestra, verso Silvio Berlusconi, e pare che lui fosse l'elemento un po' divisivo. Però adesso cambieremo argomento tra pochissimo e intanto vi ricordo quali sono i fatti principali della giornata. La svolta storica, il presidente americano Trump appunto ha confermato la sua decisione dicendo che Gerusalemme è la capitale di Israele, soddisfazione del primo ministro israeliano Netanyahu, l'ira dell'ONU che dice no a decisioni unilaterali e il leader palestinese Abu Mazen che dice Trump ci porta in guerre senza fine. La politica italiana, vi ho appena parlato di Alfano, e poi anche Pisapia che si arrende sulle alleanze, si ritira e dice col PD è finita. Blitz dei neofascisti contro il quotidiano Repubblica, fumogeni e slogan e guerra al PD, dice leader di Forza Nuova. Dati Istat, secondo i quali aumentano le disuguaglianze in Italia, 1 su 3 a rischio povertà. La scelta di Time, ne parleremo tra pochissimo, poi Agicom diffida Amazon e dice svolge un vero e proprio servizio postale senza titolo. Musica, addio Johnny Hallyday, la star del rock francese, idolo dei giovani, è morto a 74 anni. In campo invece per la Champions, Napoli contro il Feyenoord, sempre 1-1. Adesso parliamo della persona dell'anno 2017. Voi sapete che per tradizione, insomma, da tanti anni la rivista americana Time, una delle riviste più prestigiose al mondo, come sempre a fine anno dedica la copertina alla persona dell'anno, che può essere un individuo, un gruppo oppure un ente, un'associazione, che si è distinto per dei motivi speciali, a volte persino in negativo, ma insomma che si è resa comunque protagonista dell'anno. E per fine 2017 questo riconoscimento Time ha scelto di darlo alle donne. Alle donne che denunciano molestie, violenze personali, violenze sessuali, sono le silence breakers, cioè le donne che hanno rotto il silenzio e denunciato le molestie sessuali, dal caso famosissimo ormai del produttore hollywoodiano Harvey Weinstein, che è protagonista di uno scandalo di molestie sessuali e di violenze infinito, da lì in poi, perché poi le denunce sono state tantissime, no? In tutto il mondo. Ecco, sono loro a essere state scelte come persona dell'anno 2017 per la copertina di Time, donne che hanno trasformato l'hashtag MeToo, cioè anch'io, quelle che individualmente poi hanno denunciato man mano, no? Che si è aperto questo vaso di Pandora, le molestie, l'hanno trasformato questo hashtag MeToo in un movimento internazionale che è diventato poi, lo ricorda Time, nella motivazione del riconoscimento, una sorta di resa dei conti collettiva nata però come atto di coraggio individuale. Sulla copertina quindi che sta per uscire di Time c'è l'attrice Ashley Judd, che è stata tra le prime a denunciare il produttore Weinstein, poi c'è Susan Fowler, che è l'ingegnera di Uber, che ha denunciato su un blog lo scorso agosto sul clima di molestie sessuali e misoginia dell'azienda e portò questo al licenziamento dell'amministratore delegato e di altri dipendenti. Sono 5 in tutto queste donne di vari campi professionali, e il direttore di Time, Edward Falsenstein, dice la galvanizzante azione delle donne che abbiamo voluto in copertina insieme a quelle di centinaia di altre, anche a quella di molti uomini, hanno scatenato uno dei più veloci cambiamenti culturali dagli anni 60 ad oggi. E su questo allora chiedo il commento di Giulia Buongiorno, famosissima avvocata che non ha bisogno certamente di presentazione, in più con Michel Unzi, che era creato da anni questa associazione che si chiama Doppia Difesa, in favore, in sostegno delle donne appunto che subiscono abusi e violenze. Avvocata, buonasera. Buonasera a voi. Credo sia un fatto veramente importante la scelta di celebrare quello che è successo. È un fatto, perché lo reputo importante? Perché significa che c'è la consapevolezza che è stato un gesto quasi eroico quello di ciascuna di queste donne. Mentre spesso si additano le donne come persone che magari esagerano quando fanno una denuncia, che sono delle nevrasteniche, o comunque si sottovaluta quest'atto, invece credo che questa celebrazione sia il riconoscimento che finalmente hanno trovato il coraggio di dire basta, cosa che non è per nulla facile. Però devo dire che se da un lato c'è questa celebrazione sul Time, mi sembra che invece in Italia c'è un atteggiamento un po' diverso. Infatti, perché come credo avete visto, c'è una sorta di cappa di silenzio che ormai si è di nuovo creata. Una cappa di silenzio evocata non solo, e poi tanti quanti hanno criticato il fatto che magari tante donne hanno denunciato dopo tanto tempo, che siano donne famose, attrici o di altri campi professionali, oppure meno famose, no? Però diciamo che è servita questa stura, evidentemente, che qualcuna rompesse il ghiaccio, il silenzio per l'appunto. Io credo che proprio bisogna distinguere i due fenomeni. Mentre in America effettivamente c'è stato un effetto domino, perché siccome cominciamo a dire che è difficilissimo denunziare, cioè se una donna viene derubata dalla borsetta denuncia dopo 5 minuti, se invece viene violentata vuole sparire dalla faccia della terra, quindi quando finalmente riesce a denunziare, uscire dal silenzio e avere questo coraggio, ha una grandissima forza d'animo e ha avuto un effetto trainante sulle altre. Ma non c'è stato nei confronti di queste donne la scelta di metterle sul banco delle imputate, sono state celebrate fino a questa copertina, ma anche prima di questa copertina, sempre come donne coraggiose. Io noto una netta differenza in Italia, perché però è che i media si sono occupati del fenomeno, ci sono state trasmissioni televisive, giornali, eccetera, ma si è come chiusa a riccio la comunità di certi settori. Le posso dire che, ad esempio, moltissime delle donne che ad occhia difesa sono arrivate all'inizio entusiaste, pronte a denunziare, adesso hanno tanta paura e addirittura sono state destinatarie di richieste di risarcimento da parte degli uomini che sono finiti sui giornali perché sono stati diffamati. Queste donne italiane in realtà non hanno avuto quel successo che hanno avuto le donne americane, e non certo perché queste dicono il falso e gli altri il vero, perché l'Italia ancora è impregnata di un fortissimo maschilismo. Io non vedo che ci sia analoga possibilità in Italia di avere delle copertine, la celebrazione delle donne. Vedo veramente una netta differenza. Una constatazione che inevitabilmente, avvocata, lascia parecchia amarezza, perché appunto relega il nostro paese, come in tanti altri ambiti, ma molto anche, soprattutto su questo, in coda, diciamo, ai paesi più sviluppati, ai paesi occidentali, che se ne dica. Avvocata, buongiorno, la ringrazio, le auguro grazie buona continuazione. Buona serata. Grazie. Vedo questo messaggio di Stefano da Roma che dice: tutto bellissimo, mia figlia che ha subito violenza sessuale è oggetto di stalking dai servizi sociali per recuperare sto avanzo di galera. Insomma, Stefano parla della figlia che probabilmente non è difesa, come spesso succede purtroppo in Italia, come dicevamo. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Altre notizie, ve le ricordo le principali tra poco e poi passiamo ad altri temi. Intanto arrivano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, e poi al 349-238-6666 che è il numero per WhatsApp ed SMS. Le notizie più importanti ve le ricordo appunto molto velocemente. Abbiamo parlato della decisione di Trump che oggi ha confermato, considerata una svolta storica, una pietra miliare per il primo ministro israeliano Netanyahu, cioè quello della conferma della decisione che Gerusalemme è la capitale di Israele. Ira dell'ONU che dice no a decisioni unilaterali, e il leader palestinese Abu Mazen ha detto: Trump in questo modo ci porta in guerre senza fine. La politica italiana, con il ritiro di Pisapia che si arrende sulle alleanze, dice col PD è finita, e anche Alfano che annuncia non mi candido. Blitz dei neofascisti contro il quotidiano Repubblica, fumogeni e slogan, e dicono è una guerra al PD. I dati Istat che certificano che aumentano le disuguaglianze in Italia, che un italiano su tre è a rischio povertà. E poi la scelta di Time, ne abbiamo appena parlato, con la prestigiosa rivista americana che sceglie il movimento Me Too come persona dell'anno, un omaggio alle donne che hanno denunciato molestie sessuali. La morte di Johnny Hallyday, la star del rock francese, idolo dei giovani, è morto a 74 anni. Per il calcio ci aggiorna Giovanni Capuano. Per il Napoli non è cambiato il risultato di pareggio per ora, Giovanni? No, non è cambiato il risultato del pareggio, secondo tempo che è cominciato da 4 minuti 1-1 tra Feyenoord e Napoli. Napoli che si era portato in vantaggio al secondo minuto con il gol di Zielinski, che aveva dato l'impressione di dominare la partita, era andato vicinissimo al raddoppio con Mertens e con Hamsik, poi però al 33esimo ha incassato l'1-1 di Jorgensen, colpo di testa su un errato piazzamento della difesa. difesa, soprattutto di Albiol, e da lì è parso meno convinto e soprattutto meno convincente, anche perché proprio in quegli istanti a Kharkiv sono arrivate le cattive notizie del doppio vantaggio dello Shakhtar Donetsk sul Manchester City, un doppio vantaggio segnato in 4 minuti da Bernard e di Ismaili. Che cosa significa questo? Significa che il passaggio di turno del Napoli agli ottavi di finale è ormai un'ipotesi lontana. Per concretizzarsi il Napoli deve vincere, ma non è tanto questo, perché il Napoli ha tutta la possibilità di fare sua la partita nel secondo tempo contro il Feyenoord, ma dovrebbe anche contemporaneamente aspettare che il Manchester City rimontasse lo 0-2 contro lo Shakhtar e vincesse in Ucraina, e quindi la combinazione diventa complicata. Davvero un peccato, Napoli che con il passare dei minuti sta un po' perdendo di convinzione. Sarri sta provando a spronare i suoi, a cercare comunque di trovare il vantaggio per poi aspettare le notizie dall'Ucraina. Napoli che in questo secondo tempo sta lentamente cercando di riprendere il possesso del campo, così come fatto nella prima mezz'ora del primo tempo. Siamo nel sesto minuto appena iniziato, 1-1 tra Feyenoord e Napoli, 2-0 per lo Shakhtar Donetsk sul Manchester City. Fin qui i risultati sono questi. A te. Grazie Giovanni Capuano. E intanto leggo di un altro Giovanni dei vostri messaggi, che dice: dal caso Gerusalemme alla copertina del Time, sempre solo una sola campana. Complimenti Roberta, questo è giornalismo. Non ho capito Giovanni, scusa. Cioè, secondo te avrei dovuto sentire sulla copertina del Time, che ha reso questo omaggio alle donne che hanno rotto il silenzio sulle molestie sessuali, avrei dovuto sentire magari una rivista o qualcuno, un avvocato che invece difendeva gli uomini che hanno agito queste molestie sessuali? A volte non so, dice, questo giornalismo, io direi Giovanni, questa è demenzialità, non so cos'altro dire, a meno che qualche volta non si aggiunga un bicchiere in più, ecco. Adesso vi leggo anche che cosa dice là in una nota l'alto rappresentante europea per la politica estera Federica Mogherini sulla vicenda di Gerusalemme. Dice: l'Unione Europea esprime grave preoccupazione dopo l'annuncio del presidente Trump su Gerusalemme e le ripercussioni sulle prospettive di pace. La posizione dell'Unione Europea resta immutata, le aspirazioni di entrambe le parti devono essere soddisfatte e una via deve essere trovata attraverso i negoziati per risolvere lo status di Gerusalemme come futura capitale dei due stati. Ora però con il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo vogliamo sapere, non credo che ci darai buone notizie per questo ponte, non è vero Paolo? Dipende dai punti di vista, ecco, mettiamola così. Tu che sei un uomo dai glu, un pinguino degli glu, starei benissimo, questo lo sappiamo. Sono certo contento di questo dicembre che sta facendo il suo dovere, per carità. Comunque andiamo con ordine, arriva in effetti una perturbazione nel ponte dell'Immacolata, figuriamoci, venerdì peggiora il tempo al centro-nord, con piogge soprattutto al nord-est e nell'Italia centrale, compresa anche la Sardegna, che arriverà anche in Campania. Il nord-ovest verrà in qualche modo saltato, quindi sì, nuvole ma senza grandi conseguenze. Poi sabato la stessa perturbazione va verso sud e quindi sabato le piogge si spostano sulle regioni meridionali e insisteranno anche sul medio Adriatico, mentre avremo già un netto miglioramento al nord e sull'Alto Tirreno. E domenica giornata tutto sommato discreta, quindi guarda che durante il ponte avremo momenti anche con il sole, però temperature ormai bassine, anzi nel weekend caleranno ulteriormente e tieniti forte, è possibile che tra la fine di domenica e lunedì mattina arrivi la neve anche in pianura al nord, quindi insomma sì, situazione quasi invernale da un certo punto come di vista. Come sei contento, allora diciamo che hai risaputo, insomma, che io soffro moltissimo il freddo e che mi piace tanto il caldo, il sole, però capisco per esempio adesso sarebbero necessarie delle piogge, no? Brava, sì, leggevamo proprio ieri, davo notizia o l'altro ieri, che il 2017 è stato l'anno più secco in assoluto dal 1800. Arrivano ste piogge? Sì, allora siamo sempre sotto media. Questo mese di dicembre ci regalerà altre perturbazioni. La situazione in qualche modo va migliorando, ma non basterà. Quindi dobbiamo aspettare l'anno nuovo. Però, come ti ho già detto altre volte, il timore è che quello che è successo quest'anno sia un po' una tendenza, che quindi nei prossimi anni avremo sempre più facilmente stagioni secche con temperature sopra la media. Il cambiamento climatico sul Mediterraneo si concretizza così, purtroppo. Grazie al nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, quindi tu non hai bisogno, tu vai con le manichine al freddo visto che ti piace, allora devi non anche proprio, avere il coraggio di esporti in tutta la tua prestanza, è vero Paolo? No, fatto sta che se lunedì io mi svegliassi con la neve a Milano sarei la persona più felice del mondo, mentre molti mi malediranno, io in realtà sarò felice. Vabbè, la neve ci fa tornare un po' bambini, l'importante è che non crei troppe difficoltà per il traffico. Staremo a vedere, buon tempo a te comunque sia Paolo Corazzon. Grazie, buon tempo a tutti. tutti. Ciao caro Paolo, e noi ci risentiamo brevemente come sempre alle 22.